graditissimi ospiti, benvenuta all'Associazione Scrittori Alto Adige, per il momento. Poi saranno scrittori del Trentino Alto Adige, eccetera. Questa è la prima uscita ufficiale dell'Associazione. Dico bene, Alberto? Sì. Alberto è il presidente dell'Associazione? No. Allora. Probabilmente la Bruna dal lago. No, Bruna. Ma forse. Allora, siamo in piena giustamente previsto nell'ambito della massima libertà e quindi anche massima democrazia, se vogliamo, anche se non istituzionalità. Però c'è da dire che nonostante la nostra modernità, nonostante la democrazia che intendono dimostrare, democrazia diretta dove ognuno rappresenta l'associazione, hanno fatto una scelta direi classica. Giro le spalle per comodità, ma chiedo scusa ugualmente. Hanno fatto una scelta classica, come nell'antichità, quando si intraprendeva un viaggio importante, questo è un cammino, un viaggio, oppure un'opera, come scrivere, no? Un poema o cose di questo genere, allora si cercava un luogo che fosse significativo. E il fatto di aver scelto Circolo Cittadino, beh, è un fatto che ci inorgoglisce come Circoli Cittadino. Evidentemente avete voluto attribuire questo simbolo, no? Questo fatto simbolico a questa struttura che indubbiamente ha un suo fascino e anche un certo richiamo di un tempio pagano. Ma sempre nell'onda della tradizione hanno anche evocato dei numi protettori, non numi qualsiasi, no? Dante Alighieri, attraverso l'associazione Dante Alighieri, qui rappresentata dal dottor Giulio Klammer, benvenuto, grazie della tua presenza, ma anche la biblioteca provinciale, una biblioteca importante, la rappresenta e la conduce benissimo, grazie di essere venuta, ma con un pizzico di modernità rispetto al concetto di marketing. Hanno invitato anche un editore. Sarei io la modernità. Ah, no, la scelta, un po' di marketing non guarda. Quindi hanno invitato anche il dottor Aldo Mazza, voi sapete, editore di Alfabeta, e quindi benvenuto anche a lui. Chiudo qui il mio intervento e mi siedo ad ascoltare, perché insomma la novità voglio goderla anch'io, anche se vi dirò riservatamente che l'ho vista nascere un po' questa associazione. E però un regalino lo vorrei fare. Io offro l'ospitalità del Circolo Cittadino per tutte le occasioni in cui questa associazione si voglia riunire. Grazie. Per fatti pubblici o per fatti associativi, questa struttura è a disposizione. Ma è soprattutto per, anche per la biblioteca provinciale capitale del Trentino. Anche perché noi siamo profondamente convinti che un circolo con questa storia, con questa importanza nella tradizione cittadina, non possa essere una riserva privata, non possa essere un ambiente esclusivo, ma deve essere invece una realtà a porte aperte, perché alla città deve tornare quello che la città ci ha consentito nel tempo di costituire. E quindi questa struttura è a disposizione per queste iniziative di carattere culturale. Una sola ancora considerazione, la facevo ieri sera pensando a questa associazione. La presenza del gruppo linguistico italiano in Alto Adige è assolutamente recente e qui c'è una prima e una seconda generazione che comincia a scrivere di questa terra, di questa comunità, di se stessi e delle proprie esperienze. trovando quindi in questa azione di scrittura, qualcuno dirà, ma è forse tardi che ci siamo messi a scrivere? No, hanno iniziato a scrivere quando è maturata questa condizione di sentirsi comunità, parte di una comunità che riconosce individualmente i propri concittadini, ma concittadini che si riconoscono membri di questa comunità. Quindi c'è un passaggio importante anche per noi in questa terra che è la nostra terra. Cominciamo a scriverne, riconosciamo che c'è una comunità. Grazie. Grazie. Assessore, prego. Vieni. Ecco, vieni due parole. Si sente, credo, no? Buonasera a tutti, forse il microfono non serve ma fa scena per quello che dico. Buonasera, grazie a Michele che ci ospita. Io sono qui, potrò rimanere pochi minuti perché oggi è una giornata complicata e importante, poi vi dirò anche perché. Ma innanzitutto perché si presenta l'Associazione degli Scrittori, poi dovrò scappare. Oggi è la giornata in cui si è dato corso, diciamo, alla firma del protocollo per portare in house la 22. E si diceva prima di questa terra, Michele lo sa, è stato anche assessore dei trasporti, grazie alla 22 in house noi potremo finalmente finanziare la variante anche di Bolzano, ma insomma per questa comunità è una cosa importante. Ma al di là di questo aspetto dell'assessore ai lavori pubblici, io sono qui appunto come rappresentante della cultura, ci tenevo a venire, grazie anche a Alberto che ha sollecitato e ha richiesto questa presenza, per testimoniare come questo sia un passaggio importante, sia, lo diceva anche Michele, per il senso di radicamento che anche la costituzione di un'associazione di questo tipo può darci, e per il senso anche di elaborazione culturale di una terra che è e vuole essere, o che si deve pensare come una terra ponte fra culture, come una terra piattaforma di collegamento fra appunto culture e fra l'area mitteleuropea e l'area euromediterranea. Questa non è una cosa scontata, perché qui si scontrano e si incontrano e si confrontano due visioni: la visione, diciamo, della chiusura, messa in mira, ci chiudiamo di fronte ai problemi del mondo, in qualche modo ci chiamiamo fuori perché stiamo un po' meglio, oppure quella di collegarci, di utilizzare. Ecco, naturalmente io credo a una funzione di collegamento e immagino che chi fa cultura, chi è appassionato di cultura, creda nella funzione anche di collegamento che la cultura riponte. Però perché questa funzione ci sia, e questo è il punto centrale, occorre che anzi le culture, le lingue, le storie siano tutte rappresentate, esistano, siano vitali. Allora, fare e produrre cultura in lingua italiana, e quindi anche scrivere in lingua italiana e mettere a disposizione i testi dal punto di vista della cultura, della storia, della tradizione italiana in senso alto e pieno, vuol dire mettere a disposizione non solo ai concittadini di madrelingua italiana una letteratura, diciamo, anche con un punto di vista locale, ma mettere a disposizione anche ai concittadini di madrelingua tedesca un punto di vista, diciamo, che completa la ricchezza della nostra terra. Ora, noi sappiamo che anche madrelingua, insomma, è relativo, è una società che si sta chiaramente, non dico evolvendo, ma sicuramente sta crescendo, sia in termini di pluralità di provenienze, tante lingue e culture da tutto il mondo. Io ho incontrato recentemente anche una nuova associazione commerciale cinesi, per esempio, fortemente radicali, che vogliono promuovere anche cultura sul nostro territorio. Noi abbiamo seconda e terza generazione che già appunto hanno madre e padre lingue diverse, no? Nelle famiglie. Allora, per cercare di non essere troppo lungo, però io credo che sostenere, coltivare anche una produzione letteraria in lingua italiana, appunto, sul territorio, dal punto di vista territoriale, può essere estremamente arricchente per la comunità, diciamo, italiana in senso stretto, ma in generale per tutti i gruppi linguistici. la presenza di scrittori e anche di rappresentazioni culturali, teatrali o comunque culturali in generale in lingua italiana è una ricchezza per tutti. Questo deve essere il nostro punto di vista. Quindi noi facciamo cultura italiana non solo, tra virgolette, per quelli che si sentono sono di madrelingua italiana, ma lo facciamo per tutti. E quindi dobbiamo essere presenti su tutto il territorio. A Bolzano, naturalmente, dove c'è un maggiore radicamento delle aree urbane, ma è importante che ci sia una produzione, una fruizione di cultura in lingua italiana, secondo la tradizione italiana, anche a Vipiteno, perché se noi non portiamo il teatro stabile a Vipiteno, anche i concittadini in madrelingua tedesca perdono la ricchezza di confrontarsi. Se tu non hai sul territorio quell'offerta culturale, e poi la perdi. Allora, paradossalmente, i nostri ragazzi di seconda e terza, diciamo, generazione stanno camminandosi in maniera molto forte verso il plurilinguismo e il pluriculturalismo, sono in grado già rispetto ai fatti di abitare diverse culture, no? Rischiamo che sul territorio, quella che viene chiamata periferia, ma che a me piace chiamare periferia, se non irroriamo di iniziative e non facciamo arrivare, ecco, si perda un po' anche la percezione di questa ricchezza culturale. Allora, questo lungo discorso per dire che io vi chiedo di essere, giornale anche in qualche modo, per far arrivare anche attraverso i testi scritti, la produzione, il punto di vista di scrittori, diciamo, con un background culturale, diciamo, dell'area italiana, l'area euro-mediterranea, per far arrivare su tutto il territorio provinciale. Per questo ci aiuta a fare quello che diceva Michele, a sentirci tutti a casa in questa terra, sich beheimatet fühlen, no? Sentirsi proprio radicati. Questo tema, voi, nel senso, mi sto dilungando, ma molti degli scrittori che si sono uniti ce l'hanno, lo rappresentano, l'hanno coltivato, lo hanno espresso, anche attraverso opere diciamo di profilo storico, cronico, che in effetti dimostrano anche un certo radicamento sul territorio, un certo lavoro sul territorio che hanno avuto successo. Tutti gli scrittori che sono legati a queste associazioni sono scrittori che hanno avuto un successo editoriale, che sono riconosciuti. La seconda cosa che io vi chiedo è quella di aiutare voi che appunto avete siete già in qualche modo riconosciuti, aiutare i nuovi scrittori, le nuove generazioni, sia nel processo creativo, essere la punta di riferimento, e questo Alberto ha già dato massima disponibilità, quindi non solo con le scuole ma con i giovani che si avvicinano alla scrittura creativa, ma allo stesso tempo di aiutarci a fare un'altra operazione, concludo su questo, ad appassionare più cittadine e cittadine possibili, quindi ovviamente alla lingua, alla lettura e alla fruizione di cultura. Perché non so se voi avete, anche voi vi sintonizzate la mattina, io ascolto sempre Prima Pagina, e poi c'è appunto le notizie del mondo, poi c'è Prima Pagina, poi scelgono un tema, tutta la città ne parla e approfondiscono quel tema. L'altro ieri c'era il tema della diminuzione dei consumi culturali, della fruizione dei consumi culturali. E il giornalista, io mi stavo preparando, poi si ascolta sempre e ha citato Bolzano, dice c'è questa diminuzione, Bolzano è primo in Italia, poi per noi questa roba Bolzano è primo in Italia è un po' scontato. La verità è che noi partiamo da un tessuto di fruizione culturale molto molto ampia, per fortuna, ma proprio perché abbiamo una partecipazione e una fruizione, quindi anche un grado di benessere percepito maggiore, proprio la cultura produce benessere, percezioni di benessere e anche relazione, possiamo lavorare ad intercettare anche quelle fasce di popolazione che ancora non partecipano a eventi culturali, magari non leggono, e attraverso il meccanismo dell'appassionare portarli dentro anche nel tessuto di partecipazione civile e direi democratica, insomma, in senso ampio del termine. Per questo anche il vostro aiuto è importante, quindi nuove generazioni, appassionarle e allo stesso tempo intercettare il nuovo pubblico e produrre partecipazione virtuosa e quindi benessere attraverso la cultura. Adesso l'ho fatta lunghissima e veramente devo chiudere, però vi volevo lanciare oggi un apprezzamento, un ringraziamento per essere messi insieme, ma anche un compito, diciamo, che ci diamo, che do a me stesso nell'impegnarmi a sostenere l'associazione, ma allo stesso modo chiedo a voi. Ultima considerazione, grazie alla biblioteca Claudio Augusta, grazie alla direttrice, al nuovo vice direttore Patrick che è lì che diciamo, fa da punto di riferimento. La biblioteca Claudio Augusta per noi è un punto di riferimento fondamentale, dobbiamo impegnarci, lo dicevo oggi, e Valeria su questo sta facendo un lavoro meraviglioso per cercare di valorizzarla e di dargli anche dignità sempre di più che già ha, già attraverso attività, però nel nuovo polo bibliotecario plurilingue che io porterò avanti anche come assessore ai lavori pubblici in questo caso, perché appunto questo concetto di abitare diverse culture e di avere a scaffale aperto tutti i libri deve avere una forte presenza di tutte le componenti per essere effettivo, e su questo Valeria è un punto di riferimento fondamentale, e perché ci lavora da diversi anni insieme a tutta la biblioteca, quindi dobbiamo in questa fase trovare una collocazione anche più dignitosa, ma in futuro portarlo al polo. È talmente ben fornita la biblioteca Claudio Augusta che proprio oggi sono passato di lì e ho trovato 5 libri sugli haiku giapponesi, che non so se voi sapete, qualcuno di voi sa cosa sono delle poesie brevi che ricordano la mia cultura italiana, la cultura. Quindi sono veramente bravi, è una bella squadra e ci aiuta appunto ad intercettare il nuovo pubblico. Scusate, sono stato lungo, però ci tenevo oggi a dare un sostegno e vi ringrazio per grazie. Tutto. Grazie. Allora la parola alla dottoressa Trevisan. Allora, grazie di questo invito. L'avvocato Pasquali, ringrazio il dottor Di Pupo, presidente del Circolo Cittadine, ringrazio anche l'assessore Tomasini per l'incoraggiamento e le parole di apprezzamento per la biblioteca, ma soprattutto per il servizio pubblico che cerchiamo di svolgere a favore dei cittadini. Quando ci siamo incontrati prima di Natale per organizzare questa serata, il primo pensiero che mi è venuto è stato proprio come è cambiato dall'inizio del mio lavoro ad oggi il panorama con cui mi confronto e ci confrontiamo con i miei colleghi. All'inizio era difficile intercettare degli scrittori e cercare di organizzare delle iniziative per far conoscere l'editoria locale, perché non era così sentita, c'erano parecchie case editrici, però in realtà non era sentita come necessaria, diciamo, il pubblico non aveva un grande appeal ancora, ma probabilmente dovevano maturare i tempi, e ho guardato un attimo le nostre attività e mi sono resa conto che in 15 anni abbiamo organizzato 500 iniziative, 500 serate, di cui almeno 450 sono state dedicate ad autori locali oppure a persone che si sono interessate e in qualche modo hanno cercato di narrare, di raccontare o di esporre un aspetto del nostro territorio. Tornando poi indietro, abbiamo voluto anche vedere un po' come si è evoluto questo interesse per il territorio, che potrebbe sembrare molto circoscritto, molto limitato, e in realtà apre degli orizzonti insperati. Noi siamo partiti probabilmente facendo un piccolo riepilogo da una letteratura, da una produzione editoriale molto propagandistica nel periodo bellico, ma anche nel periodo successivo, dove c'era la rincorsa a individuare delle radici o a giustificare o a testimoniare, insomma, delle radici storiche, ognuno pro patria sua, insomma, e qualche inventarsi a volte di sana pianta delle situazioni storiche. Tutto questo ha prodotto chiaramente dei libri che sono tutt'oggi in circolazione e che noi in biblioteca abbiamo, perché ha una documentazione molto interessante. Ma nello stesso tempo ci siamo resi conto che dall'altra c'era il tentativo di avvicinare all'Alto Adige soprattutto per aspetti turistici. Mentre quello che si è verificato negli ultimi 20 anni, soprattutto in maniera anche proprio consistente, parlando di numeri, poi io adesso mi sto limitando un po' a fare un'analisi anche numerica, quello che abbiamo visto è che invece ci si è cimentati soprattutto nella narrazione, nella poesia, e quindi abbiamo veramente delle produzioni editoriali anche molto apprezzabili che hanno conosciuto una diffusione fuori dal territorio anche, e che non necessariamente parlano esclusivamente di storia o di paesaggi. E questo è un fenomeno tutto da indagare. Secondo me, come diceva prima anche il dottor Di Pupo, è un segnale anche di una vivacità e anche di una consapevolezza della nostra storia, della nostra recentissima storia, ma di una storia anche comune che va condivisa e va così confrontata anche con altre persone, con altre realtà che ci appartengono, insomma, con le quali siamo in costante dialogo. E una cosa anche che volevo sottolineare è questo processo di consapevolezza, diciamo, è anche il fatto che molto viene dedicato alla memorialistica, quindi è una narrazione anche autobiografica, il che a volte non è così scontato. Ecco, raccontare i propri fatti, le proprie emozioni, come si è vissuto il periodo della guerra, come si è poi riusciti a superare certi momenti difficili, certi anni molto duri anche qui in Alto Adige, e come invece si è rimasti attaccati a questa terra, si sono strette amicizie, rapporti di lavoro. Ecco, questi aspetti della narrazione autobiografica che mettono a nudo degli aspetti molto personali sono stato un fenomeno per noi anche veramente molto interessante, che potrebbe aver contribuito anche questo così ad aver sdoganato, tra virgolette, un tabù che forse la comunità italiana, mi sento di dire, aveva nel raccontarsi. Oggi abbiamo visto un po' attraverso l'arte, attraverso anche le stesse attività degli assessorati alla cultura della città di Bolzano, della provincia, eccetera, che promuovendo delle iniziative di pubblicazioni legate al territorio hanno favorito, hanno spinto anche le persone a scrivere, a iniziare a riportare i propri ricordi e a raccontare un po' come ci si senta qui a casa, cosa vuol dire stare qui, vivere qui, nascere qui, confrontarsi con altre persone e le situazioni che ci hanno portato a crescere anche in un'autonomia tutta da reinventare o da ricostruire. Ecco, questo è un po' un piccolo excursus che mi sentivo di fare partendo proprio da elementi molto concreti che ci hanno così accompagnato in questi anni di attività. Devo dire che anche la narrazione, anche l'attività di romanzieri, ecco, ha avuto un esploit notevole. Certo è che la storia moderna e contemporanea, quella che ancora ci lega e che ci vede testimoni, che è viva nelle nostre famiglie, è forse quella che più attira in certi momenti, e lo vediamo proprio in maniera empirica quando viene presentato un libro che racconta la storia di Bolzano del dopoguerra o anche di 30-20 anni fa. C'è un grande interesse, ecco, perché ci si rivede, si sperimenta o si vuole trovare quella parte di sé all'interno di questo racconto, ecco, si vuole trovare un aggancio con il proprio percorso. È una partecipazione molto corale, ecco, l'ho visto in tante occasioni. Ma dall'altra non vorrei perdere di vista invece dei fenomeni che stanno prendendo piede in questi anni di racconti, di romanzi che vengono pubblicati anche da case editrici appunto nazionali, quindi vuol dire che su questo territorio c'è una vivacità, c'è una cultura, uno stile, ci sono delle idee, delle persone che si sono anche messe in rete, e l'associazione in questo caso lo dimostra, che hanno dei talenti, insomma, che possono dare una visione, dare un contributo anche alla storia della letteratura, partendo proprio da Bolzano, e questo forse ancora mancava, no? Altro mi verrà in mente, perché mi sono presa degli appunti, ho tutti i miei pizzini, ma nel corso della serata penso che sarà una tavola, no? Più dialettica, insomma, potremo intervenire. Grazie. Passo la parola. Buonasera, ringrazio anch'io per l'invito. Insomma, anche il tema che trattiamo in qualche modo segnala l'attualità del, no, della cosa, no? Quindi il fatto che ci si riunisca per riflettere su questo. Io personalmente posso portare, così come Valeria ha un po' visto la cosa dal punto di vista della biblioteca, dell'offerta bibliotecaria a livello locale, anche delle trasformazioni, no, a cui ha assistito nel tempo. Io posso così brevemente accennare rispetto al problema della scrittura, qual è dal mio punto di osservazione, che è quello di un editore locale, ma ci tengo a dire non solo locale, insomma, perché ha molto radicato sul territorio. Faccio una piccolissima premessa, perché secondo me è abbastanza interessante. Io noi nasciamo come Alfa Beta, come scuola di lingue, no? Come un istituto di formazione, no? E sin dall'inizio abbiamo avuto però, c'era il nostro statuto, abbiamo fondato una casa editrice, no? Questa casa editrice ha prodotto libri già a partire da 25-30 anni fa, però appunto molto più specialisti di settore, saggi legati al apprendimento delle lingue, materiali didattici. E poi però diciamo il fatto che ci fosse nel nostro progetto di istituto di formazione una casa editrice, secondo me era molto consapevole, non era un caso, non era una scelta commerciale. Partiamo dal discorso che la lingua è cultura, no? E che in qualche modo non la si può affrontare in maniera asettica sia quando la si impara, ma sia quando si riflette proprio sui mondi culturali. E quindi una casa editrice, pubblicare libri, è uno strumento per facilitare tutto questo. Nel 2008 noi abbiamo rilevato, e abbiamo continuato per anni a produrre libri, ma abbastanza, non poco, però sempre molto di settore. Nel 2008 abbiamo rilevato, lo dico per questo perché è interessante, abbiamo rilevato la casa editrice Trave Books, sì, che era nata qualche anno prima e che per prima, devo dire, con Reinhard Christanel aveva cominciato un lavoro di emersione, diciamo, no? Di far emergere, no? La scrittura in italiano in questa terra, no? Non è che non ci fosse niente prima, ma c'era molto poco e non in maniera così strutturata. Ed è molto interessante, noi l'abbiamo rilevata perché ci siamo trovati insieme a dire uniamo le forze, era questo, rilevata non significa noi potevamo offrire anche una maggiore solidità di struttura, abbiamo cominciato a farle insieme e devo dire che per la prima volta, cosa che avevamo fino a quel momento evitato consapevolmente, ci siamo avventurati nel campo della letteratura, no? Cioè della narrativa, no? Era un settore che avevamo in qualche modo evitato. E da allora quindi è cominciato per noi un confronto molto serrato, perché dovete immaginare che un editore è un punto di osservazione privilegiato, perché vede tutto quello che viene pubblicato, ma anche quello che non viene pubblicato, quindi riceve manoscritti, ha un polso, diciamo, della situazione. E devo dire che sempre di nuovo in maniera consapevole abbiamo deciso di cercare di puntare tra gli altri obiettivi, no? Sull'offrire una piattaforma anche visibile, diciamo, a tutti coloro che scrivevano in maniera diciamo, per noi accettavo, chiaramente poi sono giudizi estetici, non sono discutibili, di offrire questa piattaforma e far emergere questa cosa. E ho visto, no, abbiamo potuto osservare appunto un grosso movimento, no? Sempre di più. E se noi andiamo a guardare minimamente a ritroso, cioè se qui c'è un bellissimo documento che è un libro prodotto edito dalle Sturzflüge nel 94, 15 racconti dall'Alto Adige, che cercava di mettere insieme nel 94, io la lascio, parlo del periodo, diciamo gli ultimi 30-40 anni, non vado indietro. Nel 94 aveva fatto uno sforzo lo Sturzflüge di mettere insieme 15 autori locali che scrivevano, sono il format, erano racconti brevi. La cosa interessante è che su 15, in questi 15 racconti, la cosa che mi ha fatto anche molto, ci ha fatto molto riflettere, era che nessuno di questi autori aveva come contesto la nostra terra. Sì, esatto. era un veniva in qualche modo bypassato il sottilogo, per cui si parlava sempre di altro, no? Questo non vuol dire che non ci fosse niente in assoluto, ma questo è un documento che mi, cioè come se era una letteratura rarefatta un po', che non aveva radici. Se osserviamo la lingua di questi racconti, ne parlavamo prima al bar, osserviamo anche che hanno linguisticamente, no, denunciano secondo me un fenomeno che è strutturale qui, cioè l'assenza di un dialetto dietro, no? Di un dialetto sedimentato, no? Cioè che nutre in qualche modo, quindi anche una lingua, non soltanto il fatto di non parlare di certi temi o di non avere l'Alto Adige Südtirol come luogo, no? Nel quale svolgere vicende anche di fiction, no? E in più questo discorso anche un po' linguistico che rendeva un po' particolare. E mi ha molto colpito anche in una presentazione di un libro che abbiamo fatto tempo fa, credo della rivista Cristallo, c'era la Lidia Menapace che ha detto che lei fuori dice: io sono un'italiana di Bolzano, no? Cioè che mi ha fatto anche molto riflettere, nel senso che noi abbiamo una specificità, no? Tant'è vero che io che provengo, sono arrivato qui, ormai mi sento un italiano di Merano, di Bolzano, provengo dal profondo sud, ma sono arrivato a 20 anni qui, io non direi mai sono un italiano di Salerno, sono un italiano di, a meno che non sia importante per quello, per il contesto, ma se no, quindi noi abbiamo una diversità che percepiamo, no? Una diversità proprio strutturale, siamo italiani ma, no? Dobbiamo specificare anche che tipo di italiani siamo, e tutto questo non è un discorso da fare sociologico ha secondo me molto a che fare poi con quello che produciamo quando scriviamo, con tutto quello che noi andiamo a quello che va a nutrire poi il nostro discorso di tipo letterario. Allora, partendo, altro punto da segnalare, anche io cercherò di essere breve perché poi al limite parliamo, altro punto da segnalare è il fatto che noi, io da editore la guardo complessivamente questa terra, tanto è vero che ci tengo a dire che io sono direttore delle edizioni Alfabeta Verlag, nel senso che anche la casa editrice, no? Cerca di guardare il territorio complessivamente e non vuole essere un editore né italiano né un editore specificamente tedesco. Allora, se noi guardiamo questa terra complessivamente, cosa che noi abbiamo fatto in questi anni per scelta anche culturale, non solo come editori, abbiamo una simmetria molto forte tra i due gruppi, nel senso che quel discorso che ho fatto nel 94 della letteratura italiana che non partiva, non prendeva, era invece al contrario molto forte, no? Nel gruppo di lingua tedesca, che partendo proprio da qui si è creato poi una visibilità internazionale, cioè che andava oltre questa terra. Quindi abbiamo da una parte quelli che se pensate a Zoller, ma non, insomma, l'elenco è lungo, no? Che partendo da questa realtà di vivere in un territorio contraddittorio come il nostro ci fanno la fortuna letteraria, diciamo, nel senso che scrivono, ambientano, fanno. E d'altra parte un altro gruppo invece che lo bypassa questo tema. Quindi questa asimmetria, che è una asimmetria che noi penso che sentiamo spesso nella nostra realtà, che questo fatto che questi due gruppi procedono a velocità diverse, diciamo, nel nostro caso specifico ha una valenza abbastanza importante. E il nostro compito è anche un po' quello non solo di produrre testi, lo dico questo, perché ci siamo posti anche il problema di portare a conoscenza, visto che non tutti leggono, pochi leggono in due lingue, portare anche a conoscenza le letterature reciproche, diciamo, no? Per esempio, penso che molti di voi lo conoscono, ma abbiamo fatto l'ultima operazione, diciamo in questo senso, che è anche un'operazione di sintesi, è quella narrare l'Alto Adige, curata da Monico Leselli, che è qui presente, che ha fatto un lavoro secondo me eccezionale, di 25 anni di racconto intorno alla provincia meno italiana d'Italia, e lui ha cercato di raccogliere, no? In questi 25 anni ci sono dentro più di 50 autori, quindi antologia, quindi sono pezzi di testi di questi autori, da nomi famosissimi a nomi sconosciuti. Devo dire che io, quando lui mi ha presentato, man mano che lo faceva, c'erano veramente delle chicche, degli autori che non conoscevo, olandesi o che avevano scritto però per altro. E anche qui la scelta, per esempio, è quella di mettere dentro anche autori di lingua tedesca, però se sono stati tradotti in italiano, cioè significa, e qui torniamo, veniamo al punto su cui vorrei chiudere, che questo primo intervento, questo discorso un po' che a noi interessa la scrittura, è fuori di dubbio, ma gli interessa anche molto la lettura, cioè nel senso che quando si parla di crisi dell'editoria, no? Il problema è anche che si legge molto poco, e se non si legge si perde qualcosa. Questa non è, non è un'affermazione che faccio con interessi di parte, nel senso che invece tu vai lì e vuoi leggere, non è questo il discorso, cioè è come se si perdessero delle occasioni, e questo scambio tra scrivere e leggere, secondo me, va molto coltivato. Poi se la nostra, quella che abbiamo prodotto in questi anni, è letteratura o meno, io lo lascio letteratura, no? Lo lascio aperto, nel senso che è un tentativo, no? E siamo ancora, secondo me, in una fase di riscaldamento, di warm-up rispetto al discorso. Però questo è un passaggio necessario. Io qui chiudo. Io sono stato molto colpito, l'ha scritto un mio amico, ma da questo aggettivo che lui ha usato per definire noi italiani qui, ci ha chiamato spaesati, se ricordate il libro di Giudice Andrea, no? E secondo me il passaggio successivo, quello del quale, che non è che tu superi lo spaesamento, anche se sta crescendo, indubbiamente, lo scrivere segnala che sei arrivato, no? Che sei in grado di raccontare anche, però che questo spaesamento sia consapevole, già sarebbe qualcosa, no? Cioè che ci sia un passaggio che ci permetta anche di scrivere sullo spaesamento, perché anche quella è una condizione della nostra vita, delle nostre sensazioni, ecco. E su questo noi cerchiamo di lavorare, insomma, con questa visione. Non credo di, ho dimenticato delle cose, ma spero che sia arrivato qualcosa del concetto. Ringrazio i miei colleghi relatori che mi hanno anticipato tante cose. Peraltro mi fa piacere che il tema che ha lanciato all'inizio il dottor Michele Di Puppo su questa comunità italiana che riflette, che pensa, che legge, che scrive, involontariamente poi là i motivi su cui tutti abbiamo pensato. E io credo che forse, io ringrazio intanto come società Dante Alighieri di averci invitato, e mi complimento con l'associazione degli scrittori per questo importante contributo che ha iniziato a dare. Ecco, noi come Dante spesso aspettiamo presentazioni di libri, chiaramente scegliamo quelli che più hanno a che fare con la nostra mission, cioè quella di occuparci di lingua e cultura italiana, ma spesso anche promuoviamo scrittura, abbiamo spesso dei concorsi nell'ambito delle scuole per promuovere la scrittura per la giornata della Dante, per il premio italiano di cultura, per le Olimpiadi nazionali della lingua, e da ultimo abbiamo avuto un grande successo col concorso Il Carro delle Muse, che sta destando un bel effetto a livello anche nazionale e internazionale. Ma quel che mi pare significativo, così da quel che vediamo scorrere nelle nostre iniziative, è che per il nostro ambiente, il nostro contesto culturale qui di Bolzano, dell'Alto Adige, forse la scrittura, la lingua nel suo crescere, perché abbiamo capito anche dagli interventi precedenti che sta aumentando il livello di produzione, è forse uno dei veri patrimoni del gruppo linguistico italiano. Il gruppo linguistico italiano forse si distingue molto dagli altri due gruppi per non essere padrone di un territorio, cioè non è padrone delle valli, dei terreni, di certe situazioni, di chi è sempre stato qui, insomma. Però la lingua, lo scrivere e il parlare credo che siano un patrimonio che uno si crea, un qualcosa che che mette a disposizione per sé e per gli altri e di cui è anche orgoglioso, che lega anche le persone fra di loro. In questo senso credo che sia un grande servizio che si fa, che fanno gli scrittori e quelli che scrivono alla comunità, cioè stanno creando un filo di connessione tra chi appartiene al gruppo linguistico italiano e in collegamento anche con gli altri gruppi, e quindi con un ruolo che è di primaria importanza, direi. E quel che penso interessi, da quello che abbiamo visto negli ultimi tempi, è quello di promuovere una politica culturale di chi scrive e di chi legge, perché sono due aspetti assolutamente paralleli e connessi. Io credo che il problema di oggi è più che altro permettere a tutti di esprimersi, perché tanti hanno nel cassetto delle cose che hanno scritto o che vorrebbero scrivere, a volte i livelli sono, non si sa, come diceva Aldo Mazza, se sono con la L maiuscola di letteratura o se sono pensieri e significati individuali. Però dietro ci sono persone, ci sono famiglie, ci sono gruppi che vogliono esprimersi. E sicuramente quel che ha fatto per esempio la biblioteca Claudia Augusta è meritorio, cioè in queste 500 occasioni di visibilità è un servizio enorme, però credo che proprio nella quantità c'è il rischio della dispersione, perché uno, non so, presenta un libro ma il giorno dopo se ne presentano altri 10 ed è già finito quel libro, non ci si pensa più. Una delle preoccupazioni è quella di che rimanga quello che viene prodotto, che accresca questo patrimonio comune in qualche modo, e in questo senso credo che un contributo fondamentale può essere quello dell'Associazione degli Scrittori, che mette in collegamento i vari scrittori. Ma io ho visto anche come società Dante Alighieri l'importanza per esempio della rete tra le associazioni, cioè che un'associazione veda quello che fa l'altro, che certe cose si facciano in comune, quindi che un libro, che una storia, che un romanzo, che un saggio o altro che viene scritto possa transitare da un luogo all'altro della nostra comunità, perché questo credo che sia un qualcosa che permette di, come dire, a chi ha scritto, a chi si è espresso, di sentirsi gratificato e di dare valore a quello che ha scritto. Ecco, io vedo che sta un po' alzandosi l'età di chi scrive, cioè mediamente non sono tanto giovani, o per, almeno la mia impressione, non so dei calcoli che avete fatto voi, però ecco, cioè, per fortuna arriva anche da su. Ecco, e questo credo che vecchio, dipende, lo dico da vecchio. No, dipende, penso, secondo me, anche dai modelli che abbiamo. Io dico, come persona di scuola, che una delle colpe della scuola è di aver lasciato perdere molti contenuti di quello che si deve scrivere, di quello che si deve elaborare a livello intellettualmente, tutti presi dall'apprendere delle capacità linguistiche, tecniche, logiche e quant'altro, e si è dato poca importanza ai contenuti. E questo anche sia nelle famiglie che nella scuola. E noi vediamo anche quando facciamo i concorsi per le scuole che da certe scuole arrivano moltissimi lavori, da altre no, da certe classi e da certi insegnanti soprattutto. Questo vuol dire che dove c'è promozione, dove si coltiva anche un certo culto, un certo amore per i contenuti, per la cultura, perché per scrivere bisogna metterci dentro qualcosa, non basta solo mettere parole una accanto all'altra. E quindi anche questo è un impegno, come dire, di promuovere anche nella scuola e anche nelle famiglie il nostro potenziale, diciamo. Un altro aspetto che così mi pare di poter segnalare: noi spesso presentiamo qualche libro, qualche scrittore, che ci meravigliamo come non sia mai stato conosciuto. Qui c'è la Barbara, la Cidove, una mamma che ha vissuto nei lager, che non ha mai avuto nella sua vita l'occasione per dire la sua storia di vita, ma credo che sia un'occasione straordinaria che qualcuno gli dia la possibilità per farlo, che trovi lo spazio per realizzarsi. Ci sono scrittori che vivono fuori dell'Alto Adige, ma che scrivono dell'Alto Adige. Abbiamo presentato qualche anno fa, c'era anche Michele Duppo che presenta un libro di di Masiero, questo signore che è nato in Alto Adige ma poi per varie questioni vive fuori de... E lui ha ripercorso nella sua storia di questo romanzo quel che succedeva negli anni 60 o lì in giro nei momenti di incontro, scontro, difficoltà anche tra i gruppi linguistici. È un rivedersi anche nei rapporti con gli altri e anche vedersi in modo un po' distaccato, un po' lontani da certe scene, da certe situazioni. Però è importantissimo, cioè anche queste cose vanno valorizzate. Ecco, credo che sia importante che ci siano un po', che tutti i canali vengano così valorizzati. Poi un altro aspetto ancora della nostra realtà culturale del gruppo linguistico italiano è che ci sono molti scrittori che parlano delle loro origini. Qua c'è per esempio Michele Rieni, ma ne conosciamo diversi che hanno scritto, anche Vito Mastrolia, che hanno scritto romanzi o storie che partono dalla loro origine, che non è dell'attuale. Qui vogliono mantenere, riportare un qualcosa di un'appartenenza che comunque non è mai finita. Aldo Mazza ha detto che è italiano di Bolzano, ma bene o male è un qualcosa, forse la ricchezza che dell'Alto Adige, di Bolzano, del gruppo italiano, di avere anche presenze che non sono soltanto locali, insomma. Ecco, ci si può distinguere se qui è la provincia meno italiana o più italiana, perché per certi versi la sensazione dell'italianità in qualche contesto la sentiamo più in Alto Adige che in altre parti. Se noi andiamo in certe parti, magari che si lamentano, che sono scontenti o altro, non è detto che non siamo più per consapevoli o interessati a dichiararsi italiani che non il gruppo italiano dell'Alto Adige. Ecco, tutte queste cose un po' sono quelle che in qualche modo emergono. E ultimissima cosa, poi chiudo il mio intervento. Io ho visto l'emozione di quando abbiamo potuto presentare nelle nostre iniziative scrittori o opere del gruppo linguistico ladino o tedesco, soprattutto i ladini ci hanno chiesto e così con entusiasmo chiedono di poter esserci nei nostri contesti, insomma. Credo che sia qualcosa che va segnalato, perché è qualcosa che ci dice che c'è un bisogno di comunicare anche oltre le nostre appartenenze linguistiche, anzi è proprio la ricchezza che emerge, quella di comunicare nell'altro gruppo quello che si è scritto come persona tedesca, come persona ladina o italiana e viceversa. Ecco, questa è un'operazione anche culturale che va potenziata e sostenuta un po' da tutti. Grazie. Allora ringrazio tutti i cari autori per le loro grandi esposizioni. Io ho fatto una riflessione che il titolo di questo convegno forse è un po' troppo presuntuoso e pretestuoso nel contempo, perché dovevamo parlare sostanzialmente della cultura dello scrivere. Vi rendete conto che per parlare della cultura dello scrivere dovrebbe impiegare qualche giorno, a partire dalla storia della scrittura, da quando l'uomo ha l'uso della ragione, che è riuscito a tradurre poi in scritto, e dai papiri egiziani, dalle grandi opere di Omero, di Virgilio, dai grandissimi scrittori e poeti latini, fino ad arrivare a Dante Alighieri e a Shakespeare, a Leopardi e via dicendo. Io credo che non sia il caso di soffermarsi su questo argomento, perché impiegheremo molto tempo. Devo dire che lo scrivere oggi, come ha detto mio collega, è una necessità. Dobbiamo scrivere per ragioni di lavoro, per ragioni professionali, e può essere anche l'occasione per scrivere come hobby, come passione, per tradurre i nostri pensieri in un'opera che può essere letta dal prossimo. Ora, noi italiani abbiamo una grandissima tradizione per quello che riguarda la cultura dello scrivere, e io penso penso solo a Dante Alighieri, lo citiamo visto che qui c'è il presidente della Dante, ecco, ma abbiamo avuto comunque dei grandissimi scrittori, dei grandissimi poeti, e abbiamo avuto anche dei grandissimi giornalisti, devo dire. Io faccio il nome per tutti, che è stato Indro Montanelli, che è stato, oltre che un ottimo giornalista, anche un ottimo scrittore. Ho avuto il piacere l'altro ieri di andare a sentire Peppe Severini, che è molto simpatico, la cui ironia e il cui sarcasmo nello scrivere sono unici, ed è riuscito anche a tradurlo nella sua opera teatrale. Devo dire, c'è un però in tutto questo. Le case editrici molto spesso, non faccio un'accusa d'alfabeta, le case editrici pensano soprattutto alla redditività economica. Quindi ci sono degli autori che hanno una grandissima validità, un grandissimo valore professionale, che però non sono nessuno. Si chiamano Mario Rossi e non si chiamano Bruno Vespa. Allora, molto spesso io vedo quello che c'è, sono appena stato in una libreria qui davanti, in vista cosa ci sono? I libri dei leaders della televisione italiana. Allora, c'è Bruno Vespa, c'è la nostra Lili Gruber, tanto per fare degli esempi. Per carità, io non discuto sul valore del loro scrivere, però a mio parere ci sono degli scrittori locali che sono assolutamente snobbati e dimenticati, che valgono moltissimo e però non hanno alle spalle la notorietà nazionale, la notorietà televisiva, oppure la notorietà politica, perché avrete notato che da un po' di tempo anche i politici si dilettano a scrivere, molto spesso molto male, devo dire, però vendono, perché negli editori cosa guardano? Guardano chiaramente il loro mestiere, guardano alla redditività economica. Ci vorrebbe un impulso che deve provenire dagli enti pubblici, quindi soprattutto province, comuni, di dare spazio agli autori locali. Ecco il perché è nata questa idea dell'associazione degli scrittori a Bolzano. Gli scrittori, siamo stati 10 fondatori, ma siamo già arrivati a 20 oggi, ho visto proprio l'elenco degli associati. Qui abbiamo Ettore Frangipane, Caramaschi, Mastrovia, Umberto Montefiori, Bruna Dall'Ago Veneri, Bianchetto, ecco, ci sono tutti, il professor Mariano, tutti associati che hanno questo talento di saper scrivere. E alcuni scrivono, devo dire, molto molto bene, e avrebbero bisogno di un lancio propagandistico che dovrebbe venire dalle case editrici, ma soprattutto dovrebbe venire dagli enti pubblici. Ecco, io credo molto poi nel concetto che l'unità fa la forza. C'è già una prova questa sera, nel senso che siamo 4 associazioni che stasera fanno una manifestazione importante, e per la cultura di lingua italiana in Alto Adige, credete, questo è molto importante. Io ho tentato molti anni fa, con scarsissimi risultati, di creare una federazione per tutti gli enti culturali di Bolzano. Ho visto peraltro, c'era il professor Novet, nel frattempo deceduto, ma ho visto che c'era un individualismo associativo terribile. Poi ciascuno voleva il suo orticello, voleva, cioè non si rende conto quello che può creare, l'aiuto che può creare per lo sviluppo della nostra comunità, lo stare assieme in associazioni culturali e combattere assieme per il raggiungimento di un fine, che non è un fine politico, intendiamoci, perché grazie al cielo stiamo andando insieme a un periodo molto fortunato per quello che riguarda i rapporti interetnici, e credo che ci sia anche una forte volontà di collaborazione politica. Però credetemi, il mettersi assieme sotto il profilo culturale è importantissimo, e questo ci proponiamo noi come associazione, consci di poter portare un contributo allo sviluppo e al progresso della cultura tuttavia. Grazie. Ecco, vorrei che intervenisse la Bruna, Frangipane, qualcuno, dai, e Mariano. Posso? Prego, Bruna, dai. No, io per adesso ho già detto che per 10 minuti me ne vado. Allora sì, non intervengo per niente, sono molto contenta di far parte di questa associazione, anche se io faccio anche parte, e te l'ho sempre detto, della Signora Autori per Animo, che è l'altra parte della medaglia. Bene. Comunque, questo mi fa molto piacere, e sono molto d'accordo con tutto quello che è stato detto. Non sono d'accordo più in fondo con il fatto del... Non è una difesa tua, Aldo, per carità, non è in questo senso. Non è vero che gli editori soltanto pensano al loro profitto. Non ci credo, soprattutto non... Non ho parlato di lui. Non, non li rappresento. Ma gli editori in generale, e io devo dire, cari editrici alla quale mi appoggio, Alfabeta, ecco, che veramente è una grande apertura per tante cose. Ecco, tutto questo, cerchiamo di fare... Ci sono tantissime cose ancora da fare. Ieri sera, nella presentazione dell'antologia, sono uscite delle cose interessantissime. Una signora ha appunto detto che nessuno degli scrittori italiani, in me vero, si è preoccupato delle sensazioni, delle sensibilità, di quello che hanno passato gli immigrati italiani nel periodo degli anni 30 e più tardi, e ragion per cui anche su questa linea ci sarebbe moltissimo da fare, moltissimo da scrivere, perché dobbiamo essere veramente, come scrittori, in qualche modo testimoni di questi movimenti, di questo vivere insieme, di come è stato vissuto e quali sono le due parti. Punto e basta. Grazie. Volevo agganciarmi un attimo. Certo. No, insomma, tirato in ballo dal discorso degli editori, perché io sono una vittima, diciamo, non sono un capello. No, rispetto al discorso degli editori, bisogna, perché io sono una vittima di Bruno Vespa, voglio dire, non sono. Per intenderci, no? No, ma volevo puntualizzare che, senza fare adesso qui il pianto sulla difficoltà a fare libri della gente, non legge, però di fatto è così che noi abbiamo in maniera molto, e dico tra l'altro non vale solo per noi questo discorso a livello locale, noi abbiamo tentato di fare proprio un lavoro per offrire una piattaforma e una visibilità a questi scrittori. Abbiamo moltissimi, oltre agli scrittori affermati come la Bruna, abbiamo anche molte persone alla prima opera o alla seconda opera, quindi proprio è stato anche quello di andare a cercare, no? L'autore, ecco, da un punto di vista poi commerciale questo diventa una cosa molto difficile. Però vi devo dire una cosa, io sono rimasto senza parole quando eravamo, per motivi poi editoriali, a Merano alla presentazione del libro della Gruber. La biblioteca di Merano organizza la presentazione del libro della Gruber e sceglie la saletta piccola del Cursal, non so se voi sapete. Arriva talmente tanta gente che si spostano nella sala dove si fa i convegni del congresso della Volkspartei, sopra e sotto, pieno, più di 1500 persone. Io dovreste dire, allora, come editore, io dovevo essere felicissimo, cioè 1500 persone che andavano alla presentazione di un libro. Non è vero, queste 1500 persone andavano perché c'era da toccare il personaggio televisivo, non senza dire niente contro la. Allora, però quello lì è un'altra velocità questa. Se voi pensate a quello che sta succedendo, se pensiamo in termini anche un po' più nazionali, con la Mondazzoli, no? Con il mono, con la fusione Mondadori e Rizzoli, no? Quello che succederà, nel senso di che è anomalo rispetto a tutto il mondo occidentale, di una concentrazione, le librerie che chiudono. Cioè, allora noi ci stiamo sforzando nel nostro piccolo di fare un lavoro in cui combattiamo contro questa onda e lo facciamo con la narrativa, per esempio anche il tentativo anche molto faticoso di tenere in vita la rivista Il Cristallo, anche questo è un patrimonio che si perde, diciamo, no? Oppure quello di fare traduzioni di prime opere, cioè di autori di lingua tedesca, su tirolesi la maggior parte, ma non solo, non mai tradotti in italiano. Quindi anche questo tentativo sono tutte operazioni molto difficili, molto rischiose. Io sono anche un po' però del parere, e qui non ce l'abbia nessuno, ma che in qualche modo l'autore un po' di filtro deve farlo. Cioè, io starei un po', anche rispetto alle cose che dicevi tu prima, Giulio, cioè che venga pubblicato proprio tutto, no? Sarei un po' attento, diciamo, no? Poi è chiaro che ti devi assumere la responsabilità del filtro e quindi che dai un giudizio. Però attenzione, perché è vero, è proprio questo, che i libri sono talmente tanti che se tu non fai un minimo di selezione alla radice, siccome ci consumano veramente come, ve lo dico, come i panini. Cioè tu fai un libro, c'hai 10 giorni, c'è movimento, poi è come se non esistesse più. Insomma, se parliamo di narrativa è assurdo questo, non è una cosa di attualità che perde attualità. E in questo senso, quindi, io bisogna anche gestirla come comunità, come editore, cioè gestirlo con serietà questo discorso. Cioè, un grano sale. Sì, appunto, ma il che non significa però creare piattaforme, creare disponibilità in questo senso. Poi il mercato locale, qui chiudo, il mercato locale come numeri è incredibile. Cioè, noi gli italiani che vivono in questa terra, se scriviamo, se pubblichiamo un prodotto legato a questa terra, sono un numero, che sono il quartiere di una grande città. Una metropoli, diciamo, nemmeno. Quindi in termini di potenziali acquirenti siamo a numeri che sono già, si legge poco, immaginate un po' che quello succede. Però non volevo fare però questo discorso sulla. Ciao. Tutto quello che diceva Bruna Maria, cioè effettivamente forse non vengono raccontate le emozioni, ma noi abbiamo un patrimonio da questo punto di vista, anche documentario tra virgolette, che è la memorialistica. Spesso gli scrittori non hanno vissuto dei periodi, perché magari sono anche giovani o comunque non hanno vissuto una storia di questo tipo, ma potrebbero attingere a quelli che sono i ricordi della memorialistica che noi abbiamo, perché esiste, è nata, si sta sviluppando. Certo che chi raccoglie i propri ricordi non vuole fare, o almeno non è sempre così intenzionato a fare un caos editoriale, vuole raccontare le proprie memorie, vuole mettere a disposizione anche per motivi di studio, ma la cosa si esaurisce lì. Ecco, qualche associazione, come per esempio è successo recentemente anche con l'AMPI, vuole verificare oppure raccontare, fissare alcuni passaggi relativi a quelli che sono gli studi, però difficilmente una persona mette così a nudo per fare il caso editoriale. Ecco, invece sono un patrimonio interessantissimo per chi poi queste storie le vuole raccontare su un altro piano, no? L'abbiamo visto col teatro, per esempio, questa operazione è stata fenomenale. Quando anni fa in biblioteca, partendo dalle fotografie delle acciaierie, abbiamo invitato le persone che avevano lavorato a vario titolo, quadri, operai, tecnici e via dicendo, oppure anche impiegati nelle acciaierie, abbiamo chiesto loro con puro volontariato di raccontarci chi era raffigurato in quella foto, quando, dove e perché. Siamo andati avanti 3 estati, ci siamo divertiti come dei matti, alla fine è venuto fuori un lavoro teatrale, non solo un lavoro. Lo stesso Goscinny, questo parto, no? Sì, quindi queste cose. Allora, il patrimonio c'è, se uno non ha vissuto questa storia, però c'è chi l'ha vissuta e la mette a disposizione, poi tu la puoi raccontare, la puoi anche reinventare, ma le emozioni te le può fornire una persona, te le fornisce gratuitamente, perché l'emozione è la vera. Così è il vero messaggio che si vuole trasmettere quando si scrive, e qui mi riallaccio alla scrittura. Allora, quando si scrive non un saggio, non una storia, non una cronaca, ma quando si vuole scrivere una appunto un racconto, o si vuole fare uno spettacolo che racconti le persone, perché alla fine gira e rigira, il vero nucleo, il vero interesse siamo noi, o sono gli altri, o insomma tutti insieme. Che cos'è che ci interessa? Ci interessano le emozioni, cioè il libro passa o delle informazioni, se è un libro di saggistica, o delle emozioni, punto. E queste rimangono, la saggistica è destinata ad esaurirsi, a rinnovarsi, perché poi oltretutto adesso viviamo in un periodo molto veloce, quindi la scienza va avanti di giorno in giorno, ormai dobbiamo lavorare sugli ebook, perché ristampare un libro e aggiornarlo sarebbe troppo rapido, troppo difficile da stare dietro. Ma un racconto rimane per sempre, cioè è un'emozione che chiunque di noi può condividere, una paura, una bellezza, una paura della morte, non so, è la prima cosa che mi viene in mente, perché ultimamente ho questi libri che indagano questo rapporto con la fine, no? Ma vedo che sono dei libri che instaurano un dialogo con questo autore che io non ho mai conosciuto, me l'ha solo mandato tramite una busta in biblioteca, ma con preghiera di dargli un'occhiata. Allora, queste sono delle emozioni che passano attraverso delle righe, delle parole scelte non a caso da una persona che non conosco, ma che sicuramente vuole comunicare qualcosa di se stesso e vuole mettersi in una rete invisibile ma molto forte, che è poi il resto dell'umanità, insomma, ecco. Il racconto ha una grande forza, la poesia poi ha una forza ulteriore, poi a chi piace magari ha questo aspetto metafisico che va oltre, no? nel suo modo di comunicare dei concetti. Per quello forse varrebbe la pena effettivamente di anche attingere a quella che è la memorialistica, cioè andare proprio a vedere e conoscere le persone del nostro territorio, non per pubblicare, perché sì, non si può, almeno fare poi conti anche con quello che è nostro, ma utilizzare veramente anche con la loro consapevolezza, sì, quella che è stata, che quello che è il loro bagaglio prezioso. Ecco. Grazie. Volevo sentire un attimo Ettore Principale, se viene a dire qualcosa. Non vuoi dire qualcosa? Si parla di tante cose, di tanto fumo, di poco arrosto. C'è tutta una filiera che parte dall'editore, arriva all'autore, termina in libreria, si conclude nelle mani di un auspicato possibile potenziale lettore che chiede lo conosce. Fa fatica l'editore a pubblicare il tuo libro, adesso parlo di cose personali perché mi voglio arrampicare su e giù per le nuvole. È difficile trovare un editore. Travel Book mi ha detto di no una volta, Alfabeta mi ha detto di no un'altra volta, e parlo di località, di editori locali. Ho lavorato con la Praxis, ho fatto i primi due volumi di Bolzano Scomparsa, e poi ho detto che non guadagnavo abbastanza, non le tornavano i soldi, sono dovuto andare a Trento, curvo genovese, e ho fatto il numero 3, 4, 5, 6, 7, adesso faccio 8. Ho lavorato anche con Attesi, ma la preoccupazione di tutti gli editori, comunque genovese, la Praxis prima, l'Attesi poi, è quella: mi trovi i soldi? Cioè io dovrei andare in giro a chiedere soldi ad aziende, ad industrie, a imprese volonterose, ad amici. Non c'è cosa più antipatica che andare dagli amici che hanno i soldi, intendo dire che magari sono miliardari, producono pane per tutta la provincia di Bolzano, per il Trentino Veronese, però tirano i soldi una volta e poi per dicono, vabbè dai, sono difficile adesso, no? E allora si chiude la testa. Il problema sono i soldi. Ne ha accennato Alberto, tuttora mi chiede se mi rivolgo ad un editore. Sto cercando, un editore che non sia un editore della provincia della regione, un editore che riesca a spaziare al di là, un editore di portata nazionale. Ho terminato un libro in questi giorni, che mi pare un libro interessante a me, quanto mi pare di interessante. E ho subito trovato degli editori disposti ha pubblicato una giornale nazionale con i bagagli. Mi hanno chiesto 6.500 euro per la stampa, la produzione, la diffusione di un libro. Naturalmente la diffusione la garantiscono loro, dicono noi distribuiamo le messaggerie, le cose buone, le maggiori librerie, vendono la scritta, il cavallo, per cui tutto ciò che sono i doni. Sto cercando un editore a livello nazionale che non mi chieda soldi. Ho mandato il mio testo ad un congruo numero di editori e aspetto una risposta. Mi si dice che devo aspettare 6 mesi, che dopo i 6 mesi, se non ho risposta, la risposta è no. Non è facile. Non è assolutamente facile. Poi c'è un altro discorso, no, tu non devi parlare perché adesso devo parlare. I lettori, ci sono i lettori, gliene importa niente ai lettori di quello che io scrivo. La dottoressa Trevida dice delle bellissime cose quando dice che tutti noi siamo una memoria storica. Io sono una memoria storica. Ho 81 anni adesso, ho vissuto cose che meritano di essere raccontate, forse. Quando ci sediamo ad un tavolo, al ristorante, con degli amici che hanno qualche anno e qualche esperienza alle spalle, ci sentono dire delle cose interessanti. Ma se io vado in via Sassari con il mio libro e racconto la mia storia, che mi frega in via Sassari? Questo è il discorso. Io sono gliene importa molto della Gruber. La Lili Gruber ha scritto del suo passato, ha scritto e fatto scrivere del suo passato. Perché la Gruber ha avuto il negro in editoria e in giornalismo, il negro è quello che fa il lavoro per te. E questo lo sanno in pochi. Indo Montanelli aveva, no, scriveva da sé. C'era un altro grosso personaggio, un giornalista di primissimo piano, che è appunto Borsato, mi ricordo quando ero ancora giornalista qua in centro locale, che aveva preso di sé uno che veniva qua per scrivere Cervi, Mario Cervi, per scrivere della situazione altoatesina, delle cose interessanti per conto del Cervi. Era come se il negro, che era un personaggio patetico che zoppicava, era una gamba dura, e scriveva per lui, dava in giro la propria notizia per lui, gli riportava e lui metterebbe la copia. Ma ci metteva la firma. Quando la Gruber è venuta, quando la Gruber è venuta a Bozzano, mi ha telefonato, Ettore, verresti che a raccontarmi qualche cosa, così io nel mio prossimo libro, che è quello che si vede dappertutto, posso raccontare delle cose che tu hai vissuto e mi riferisci. E sono andato, ci siamo visti alla città, c'era lei, c'era suo marito, c'era un signore che non conoscevo, che era quello che mi faceva le domande. Poi ho capito. Era il negro. Era il negro. Era il negro. Era il vostro marito. Sono due piani. C'è per dire di Gruber, che è mia amica, adesso la sto sputtanando, mi spiace. Però voglio dire, voglio raccontare queste cose, perché questa è la realtà. C'è chi scrive, c'è chi vuole i soldi per fargli pubblicare, c'è chi non vuole rischiare i soldi per pubblicare, perché capisco anche l'editore che si trova di fronte ad una tipografia che vuole i soldi, poi il libraio che non gli mette i libri in vetrina, perché vanno i libri della Gruber, che è il negro. Questo è l'editore. Poi in ultima analisi non c'è il lettore. Il lettore non c'è. Io vedo quando presento dei miei libri, vengono molte persone. Normalmente, quando la signora, la professoressa Trevisan, mi mette a disposizione sana abitudine, e la biblioteca provinciale di Bolzano è veramente, non perché c'è la signora, ma è veramente una grande interessante realtà, una sala di una certa consistenza, oltre a 100 persone vengono, ma io faccio anche delle presentazioni al Circolo Masetti. C'ero io, due signori e il barista. No, e allora il barista ci ha fatto la mangiare il piatto di spaghetti, devi le esperienze e le storie. È stata una cosa molto simpatica per lui. Però non è il giornalismo che l'attività di uno scrittore possa risolversi tante cene, no? Ecco. Io penso che si sono dette delle cose interessanti finora in questo momento, altre cose interessanti potranno venire dopo. apprezzato quello che ha detto in particolare la signora Trevier, ma anche altre voci che ho sentito, logicamente. E penso che ci sia molto da fare. E penso che dovrebbe intervenire molto sotto questo profilo l'ente pubblico ancora una volta. L'ente pubblico come? Tanto per cominciare, l'ente pubblico fa già qualcosa, ma che è la biblioteca provinciale. E la provincia sotto questo profilo c'è. Però non basta. Noi vorremmo scrivere, noi scriviamo, ma perché si stampi la tariffa ci vogliono dei soldi? Dobbiamo andare, torno al discorso di prima, a mendicare, no? Dovremmo poterci rivolgere alla provincia e dire alla provincia, c'ho questo libro, cosa ne dite voi? E la provincia potrebbe dire, questo è un libro che merita di essere sostenuto o no. Se merita di essere sostenuto, perché non interviene? Non per dare i soldi all'autore, ma per dare i soldi all'editore. Al tipografo e al compositore. Perché i soldi che io vado a vendicare, poi li incasso all'editore. A me resta la gioia dell'hobby, perché posso fare qualcosa, posso raccontare le mie cose, e se non ci rimetto è tanto riguadagnato. Ma l'editore ha bisogno di campare il suo mestiere. Io sono pensionato, figurate. Quando scrivo le mie storie di Subotano Scomparsi, il mio libro è pagato dal giornale Alto Adige, che nel giro di 10 anni mi ha dimezzato 2 volte i compensi, perché bisogna risparmiare su tutto, licenziano giornalisti e danno il compenso ai collaboratori. Questa è la realtà delle cose. Ma io ho sempre una mia base, per il suo giornale attuale, che mi consente pertanto di entusiasmo, per il quale vado a sfogliare pile di giornali e scrivo gli articoletti, poi leggete la domenica, che poi raccolgo ed escono i miei libri, che pertanto sono pagati indirettamente, no? Mi diverto così. Dico una cosa, l'ente pubblico dovrebbe finanziare gli editori e dovrebbe sostenere la vendita dei libri finanziando, questa è una cosa nuova che penso io, finanziando i librai che espongono e promuovono i libri degli autori di questa provincia. Il mio amico Alberto Pasquali, che io insisto essere un valido presidente, anche perché lui cerca disperatamente di rifilare la presidenza di questa associazione ad altri, è un personaggio valido perché si dà da fare, è riuscito a farmi dire qua Tomasini, che su, che ha detto delle belle cose e poi se n'è andato, avrei voluto che restasse qua e rispondesse qualche domanda, tipo lui parlava di cultura che va sostenuta, ma si sta chiudendo in questo periodo un'attività teatrale molto meritoria a Bolzano, proprio per il conflitto che c'è con la provincia, parlo della comune, e chiudo la parentesi. Avrebbe potuto forse dire qualcosa, impegnarsi in qualche cosa, non credete? Che la provincia tiri fuori qualche lira o qualche euro, aggiorniamoci, finanziando l'editoria da una parte, i librai dall'altra, di riflesso si potrebbe dire, e poi, altro discorso che mi sussurrava mia moglie che insegnante, e poi queste cose vanno promosse nelle scuole. Ho sentito dire da Klammer, che è una cosa molto interessante, che ci sono delle classi che danno, delle scuole che danno, è riflesso degli insegnanti che si adoperano in questo senso. I ragazzi, i bambini devono imparare a leggere, questo è il punto. E quindi questo è un altro terreno sul quale ci si potrebbe muovere. Però è ancora una volta l'ente pubblico, scusatemi, se la provincia promuove nelle scuole dei temi, dei concorsetti, scriveteci i vostri racconti, voi bambini delle scuole o delle scuole medie, inferiori, superiori, anche, non è detto che le bambine siano elementari, e noi pubblicheremo questi vostri raccontini, anche perché finanzieremo l'editore che pubblicherà, e andrebbero un libro scritto da bambini per le famiglie, per esempio, sarebbe una buona idea, sarebbe un bel successo, ci sarebbero tante cose da fare e da dire. Io auguro al mio amico che riesca a portare avanti, a trascinare avanti questo caso. Non so fino a... siamo pieni di buona volontà, ma non è facile. Grazie. Ettore, per dire qualcosa di positivo, che l'unione faccia la forza, e che e questa proprio la funzione della nostra associazione è quello di combattere assieme contro queste, chiamiamo ingiustizie, se sono ingiustizie. Ecco, ripeto, se abbiamo, ripeto, oggi siamo siamo partiti in 10, siamo già in 20, potremmo diventare anche 50, ma io credo che andare a battere i pugni sul tavolo dell'assessore alla cultura del comune di, della provincia e anche del comune di Bolzano dipende anche da molto dalla nostra buona volontà, dalla nostra capacità di inserirci nel gioco. Voglio rispondere un attimo, però faccia pure. Sono Celestina Lanzini, non so come conosce altri nomi. Mi dispiace, o forse c'è qualcuno dell'associazione Latman e che sicuramente conoscete, mi dispiace che non sia presente, perché l'associazione LACMAG di diritto potrebbe fare parte di questo gruppo. E la LACMAG da tanti anni porta avanti un lavoro di sostegno degli scrittori, dei poeti, delle emozioni, e nello stesso l'ho pubblicato, io anche faccio parte della LACMAG ultimamente. Come critico Eugen Galasso, il professor Galasso, che credo sia una delle menti, diceva il professor Serravalli, la più grande mente dell'alto italiano dell'alto Adige è Eugen Galasso. Vabbè, comunque è ora a Firenze, perché non torno. Comunque, al di là che sia vero o non vero, adesso io semplicemente volevo dire, volevo intanto essere presente come gruppo LACMAG in modo da dire ci sono anche loro in questa riunione. E un'altra cosa, quello che è importante è che noi riusciamo a simbolizzare le nostre esperienze qui. Tanti anni fa ho scritto gli italiani non sono ancora arrivati a simbolizzare, a rendere simbolico il loro percorso storico. Ora mi sembra che questo fiorire di scrittura sia finalmente il fiorire di una capacità di simbolizzare, ognuno con le proprie esperienze, emozioni, cultura. Non andrei tanto a cercare se ci danno o non ci danno i contributi, vabbè, speriamo di dire, ma insomma i contributi si sa, se noi guardiamo, scusate, le pubblicazioni della provincia, ce ne sono tante che si potrebbero anche allontanare, no? Poi adesso si usa molto questo termine, e quindi la provincia a volte spende per una propria propaganda, con quello che fa, e in verità non spende per sostanza. Quindi sono felice che ci sia questa vita simbolica, che finalmente si riprenda la lingua italiana, perché quando io dopo qualche anno di residenza a Bolzano ho scoperto di essere italiana, prima non ci pensavo. Era normale di essere, non so, di Salerno, di Palermo, di Roma, ma sono italiano, no? Mi è toccato essere italiano. Ho disimparato la lingua italiana perché a un certo punto era talmente striminzita e povera che quando sono andata poi a studiare a Firenze Per mesi mi vergognavo di nuovo a parlare, perché tanto era ricco il linguaggio del comune fiorentino, anche di quello che mi vendeva il panino e di piazza rispetto al mio. Comunque, felicissima, commossa, che tutti noi, poeti, scrittori, non so, e chi altro, insomma, il pensiero, possiamo insieme andare avanti, ognuno con la propria storia, con le proprie scelte, cercando non tanto di accanirci in incontri disfattisti, no? Che poi lasciano la mano in bocca, ma una volta tanto uscire da un posto sentendo che c'è dell'amore tra di noi, che siamo insieme, che siamo purtroppo in una terra che non è la nostra terra, perché io cammino su una terra che non è la mia terra, ma anche chi c'è nato non sa bene come cammina. Ecco, per esempio, dottor Pasquale sicuramente si sente, tanto che il libro che ha scritto è un cercare no, la propria identità in questa terra. Ci sono situazioni differenti. Finita, perché mi tiro troppo a lungo. C'era alle Space, non so se conoscete questo galleria o spazio culturale del dottor Marangoni, ci si incontra anche con scrittori che vengono dal Marocco, che vengono dall'Algeria o comunque dai paesi dell'est. Ebbene, anche per loro c'è questo problema, perché della identità, chi siamo? Non siamo più quelli di prima, ma come siamo e chi siamo qui? Allora credo sia molto diverso per chi è figlio di chi è venuto, per chi è nipote, per chi è venuto qui. E tutto questo è sicuramente da confrontare e da vedere. Scusate. E poi dopo. Solo un secondo, veramente, non farò autobiografia, assolutamente. Non faccio propaganda neanche per gli algerini. Io volevo solo dire che la provincia ogni tanto invece fa. No, il sì, no? Sì. Per esempio, io il secondo libro della mia vita non l'ha pubblicato la provincia. Forse ho avuto fortuna perché parlavo di Silius Magnago, ho capito, ho raccontato dei colloqui, ho capito, ma allora vedendo dietro un carissimo amico Francesco Pagni, il quale ho due bellissime libertà educate, vignette, bellissime, le tocca. Però che racconta cose che non interessano a nessuno. A me cosa me ne frega di sapere che uno ha vissuto 20 anni nella baita o al mare a Spezia a fare il bagnino. Cioè, bisogna anche che chi scrive si metta in mente di scrivere cose che possono avere un certo interesse per chi le legge. E quindi a un certo punto io non l'avevo fatto per quello, era da una conferenza velocissima della Praxis. C'era la Gesù, c'eravamo appunto, come dice l'amico Francipane, una folla oceanica di 20-21 pensionati. Io ero ancora bipede col cane e questi qui e presentavano il libro di Magnago serio, io lo chiamo così, quello serio, cioè contenoso, documenti, ponderoso, eccetera. Alla fine, quando ha cominciato a parlare di Magnago, i 20 pensionati italianissimi che calpestava una terra non italiana, io devo dire la verità, quando vado in Francia per me terra è terra, dove sono io per me va bene. Quindi, allora sono un po' così, avevo fatto un po' di politichetta, alzato la mano e ho detto ma guardate, così lì si è calmato l'ambiente. Poi alla fine una certa signora che non ho mai visto, che si chiamava Stoker Marta, dice ma scusi lei chi è? Io dico, lei è quello là che era presidente della provincia? Sì. Dice lei la mangia italiana, e si è messa a ridere, cioè non li mangio più, anche perché poi delle volte sono indigesti. Detto questo, è partita un'amicizia che si è consolidata nel tempo. Le ho raccontato che su Magliaca ho scritto qualcosa anch'io, caso vuole. L'ha voluto leggere e ha detto: oh, lo pubblichiamo come regione. E hanno fatto 3.000 copie. Per me è stata una cosa meravigliosa, bellissima. Perché? Però mi rendo anche conto che uno deve scrivere tanto decorosamente cose che possano essere lette. E devo dire, perché se no c'è la pubblicazione dell'elenco telefonico, no? Quindi ci sarebbe. Però io le vignette di Frangipane me le comprerei. Ci sono altri che forse non sanno se i libri, no? Più no, no, perché mi veniva bene. Chiedo scusa e me ne vado. Volevo solo fare un piccolo inciso, no? Perché lavorando nell'ente pubblico ho sott'occhio un attimo com'è la situazione anche dei bilanci. Noi stiamo affrontando una svolta epocale, non è più il caso di ricorrere all'ente pubblico come panacea per delle sovvenzioni o ecco, una sponsorizzazione, un sostegno delle proprie iniziative, perché non è più possibile. Viviamo in una nuova epoca, e adesso parlo del settore culturale, dove bisogna per forza di cose o mettersi in rete, trovare delle nuove formule, ma non è più pensabile avere, pubblicare un libro o avere un prodotto da sottoporre e dire adesso me l'ho finanziato, perché purtroppo non è più così, ma nascono delle nuove formule, ecco, e qui c'è uno spazio ancora ampio da sperimentare. No, io volevo solo replicare al signor Frangipane una cosa. Per esempio noi come editori, lo dico per il 99,9% delle nostre pubblicazioni, non abbiamo mai chiesto soldi all'autore. Cioè io non lo faccio il libro, ma non che chieda all'autore portami i soldi e ti pubblico il libro. Nel senso, no, sto dicendo, no, ma voglio dire no, ma perché questo fatto che l'editore, io lo trovo molto scorretto questo discorso, che l'editore chieda all'autore di pagare il libro, perciò lo sto dicendo, non per... è una cosa che io in qualche modo, essendo diciamo l'imprenditore dell'operazione, devo essere lì a trovare i soldi. Allora a questo punto che cosa succede? Succede che scatta il meccanismo che è stato appena segnalato della difficoltà, cioè una iperproduzione. La provincia ha meno soldi, no? Questa è la realtà. Hanno cambiato la legge dal 17, ci sarà una nuova legge sulla cultura che ci prevede come casa editrice in maniera molto più esplicita, però poi andiamo a cozzare con la quantità delle risorse che sono quelle che sono, perlomeno appunto viene segnalato questo continuo calo, e lì bisogna un po' industriarsi. Sì. Perché il non so, voi prima sono state fatte tanti esempi anche sulle presentazioni. Io devo dire che questo discorso della lettura non è il problema che mi arrivano 5 persone alla presentazione. Il problema è che io ho presentazioni con 50 persone presenti, anche di più, con il libro che costa 12 euro e vendo 15 libri. Cioè nel senso che le 50 persone che vengono non comprano nemmeno il libro, cioè c'è anche il discorso è, allora io prendo tutte queste cose, non le dico per dire ah non c'è niente da fare, okay. Per dire, queste sono tutte le variabili con le quali mi devo confrontare e devo trovare delle soluzioni. Noi riusciamo a fare con molta fatica e veramente senza fine di lucro, nel senso che l'obiettivo è coprire i costi e il lavoro di chi ci lavora, ma riusciamo a fare anche 15-20 pubblicazioni all'anno e ogni libro è una storia, ogni libro ha una storia sia in termini di contenuto e della scelta per farlo e poi anche per come finanziarlo e come farlo arrivare. I dati, le risposte dei lettori quando noi usciamo dalla guida turistica e usciamo dal libro di cucina, detto in parole povere, e usciamo dai guru alla Gruber e alla Vespa, ai personaggi di richiamo. Il ritorno dei lettori è estremamente contraddittorio. E questa disabitudine alla lettura, e qui va bene la scuola, cioè un discorso centrale, questo fatto che l'oggetto libro, no, ha un valore sempre e qui è la battaglia secondo me. Poi dopodiché, perché sarebbe anche giusto secondo me, non per fare il mercato, ma che sarebbe giusto che uno scrive, cioè, tutta la filiera è quella che diceva lei prima, no? Cioè l'autore, l'editore, il libraio, che tutti quelli che partecipano a questa operazione ci possono campare perché c'è un mercato che lo nutre. Noi abbiamo grosse difficoltà, io non solo dico perché la provincia, no? Ma proprio perché poi ci sono dei riscontri, perché se noi riuscissimo a vendere 1.000 libri, no? lo dico in maniera molto semplice, di un libro normale, non costosissimo in termini di impianti, ma se io riuscissi a vendere 1.000 libri potrei finanziarlo. Non arrivo a 1.000 libri qui in Alto Adige, è un'eccezione, diciamo, no? È rarissimo, e questo è un problema centrale. Però anch'io sono ottimista, cioè io non la vedo. Penso, mi posso immaginare che ci siano molti individualmente scontenti, però non la vedo così negativa. Si muove, secondo me, c'è movimento, anche la nascita di associazioni, il fatto che siamo qui a parlarne, si muove qualcosa, e bisogna essere anche un po' creativi per immaginarsi. C'era Mariani che voleva intervenire. Che poi io sì. Dunque, grazie. Io a Bolzano ho la fortuna di avere una madre di origine valdurtimese e un padre di origine umbra, e sono contentissimo di ciò in provincia di Bolzano. Infatti è una delle cose più belle che penso di aver fatto in vita mia, fare traduzioni. Ho tradotto tutto Glinder Bush, tutto Norbert Hasser, affinché le due popolazioni si conoscano meglio. Quando sento parlare, no, ma io sono Epitite Schneip, il Balcio, l'italiano, sono tedesco, mi viene da piangere, perché siamo tutti uguali. E allora proprio per quello ho portato in italiano, per esempio, tutte le opere di Wilhelm Busch, che è l'autore che è sempre stato più letto dai bambini in tedesco. E cioè ci sono circa 70 traduzioni in varie lingue delle opere di Busch. Ma soprattutto su Walter Marco Moritz. Io ho tradotto tutto, bisogna replicarlo adesso, tutta l'opera. Marco Moritz. Anche Norbert Hasser, poverino, che qui ha avuto una vita di inferno, anche quello l'ho tradotto. E non ho mai dovuto pagare nessun editore, anzi l'ha ricevuto addirittura dei diritti di traduzione. E anche per quanto riguarda i miei libri, mai pagato un cavolo, e anche lì qualche volta mi arrivava qualche diritto d'autore. Perciò adesso non piangiamo troppo dicendo che gli editori, chissà, poverini, cosa spendono, eccetera, eccetera, perché se no avrebbero già chiuso tutti quanti. Questo che volevo dire. Grazie. Grazie. Allora vi presento, perché alla maggior parte non sono noto, di voi penso che sono il dottor Lielli, sono un medico a Bolzano, sono ancora, sono in pensione dal 2010, lavoro ancora qualcosa, e ora, diciamo così, scrivo anche così, perché mi piace scrivere. E però come notizia in quel libro lì c'è mio figlio che ha fatto un racconto sul mercatino, Daniele Lì. Nell'antologia dice, sì. Sì, sono lì. Allora io vorrei dire questo, secondo me, io ho scritto poco fino adesso, ho scritto due libri, uno su Salento, perché io vengo da Salento, provincia di Lecce, sono qui da 72, quando ho cominciato il medico. E ho scritto un libro su Salento, che però è un libro che poi interessava anche l'Italia, un rapporto tra gli anni 60 e gli anni 2000, come eravamo, come siamo diventati, quindi è un respiro nazionale. E quando questo l'ho presentato all'Alto Adige, per dire che se mi volete presentare con l'autore vocale, che io sono da 71, sono qua, non mi sento anche Bolzano, anche se sono salentini. Ma dice, sì, dice, ma questo libro, dice, questo parlava del Salento, di quel periodo e dell'Italia, dice, ma non parla di Bolzano, questo non parla di Bolzano. E ora di finirla, la letteratura è letteratura, è letteratura, non c'entrano, dicono, si chiamano i posti. L'uomo è l'uomo, è l'umanità. Noi parliamo da Dante, Dante è universale, la letteratura è universale. Okay. Allora, ti ho detto, io adesso in questo preciso momento, io questi libri che ho fatto hanno avuto scarso successo. Il secondo è un saggio, La mano del padre, che è un saggio filosofico, religioso, come credente, in cui io ho discusso dei interventi del padre nostro, il padre di tutti. Se uno crede è una realtà tremenda, se uno crede che ci sia un padre, per il credente è importantissimo, La mano del padre, che è un libro di nicchia, saggio, che insomma, insomma, chi siamo noi, diceva la signora prima, noi siamo diventati dei codici a barre, siamo diventati dei codici a barre, non so più nessuno, e questo è importante degli scrittori. Gli scrittori devono portare all'umanità dovunque si scrivono. Questo libro, La mano del padre, ha venduto pochissime copie, chi voglia lo compri, eppure è un libro che Kramer l'ha letto profondo, un libro che io ho impiegato 60 anni per pensare, 65 e 3 per scriverlo, e lo ho fatto pagando non l'editore, sì. Pagando l'ho fatto stampare praticamente in 3 anni l'ho scritto, adesso per esempio in questo momento io sono un autore secondario, non sono né Daniele Gruber né Fabio Volo né quella gente che tutti quanti vanno in televisione per farsi vedere, perché questa televisione, questa spazzatura commerciale, spazzatura, è diventata docente popolare, è diventata, ha distrutto il popolo italiano, la televisione. Allora io adesso sono un autore in cerca di editore che ha scritto un libro che si intitola Treno Espresso 621, l'Italia in chiaroscuro, e vi spiego subito, sono in cerca di, perché ho scritto qua, ho scritto là, nessuno mi risponde, perché non sono in televisione, dovrei andare a mio padre e allora questo libro, siccome io nella mia vita ho fatto tantissime volte viaggi in Montano Lecce, no? Avevo i miei genitori, eccetera, e viaggiavo sempre di notte, come ho, che era qua luce, eccetera. Sono Bibbia e stessa tutti oggi. Però una volta, non so se mai, io ho fatto questo viaggio di giorno. Perché c'era un treno espresso, 621, che partiva alle 9:30 e arrivava a Lecce. E allora adesso alle 22:20 questo treno è un treno speciale che poi è stato tolto nel dicembre del 2011 ed è un treno che permette di vedere tutta l'Italia da Lenzo fino a Parma, a Trani, tramontava il sole, eccetera. Questo allora io ho pensato, il mio alter ego, il mio protagonista, che fa questo viaggio, vede l'Italia, ma è curioso, vuole conoscere le città. Ecco, allora parla delle città e della prima parte, la seconda parte parla di Lecce, delle meraviglie turistiche di Lecce, e la terza parte di Salerno, e chiude tornando a Bolzano. Questa è la trama. Praticamente questo è un libro che potrebbe dire tante cose anche le persone stesse, ma non ci interessa la presentazione del suo libro, abbia pazienza, Adesso voglio dire, il concetto è questo, che la letteratura è letteratura, certamente per esempio Bolzano è come un porto di mare, anche se è una città di montagna, perché ci sono tante persone e quindi ci sono tante esperienze. Quindi a un certo punto sono esperienze che possono essere utili. Se ho dato partito qualcuno è successo. Grazie. Allora è vero che molti se ne stanno già andando, chiudiamo questo convegno e ci ritroveremo al più presto con un'iniziativa. Grazie.